Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e continua un'altra giornata di borse positive. Lo diciamo con la massima soddisfazione, senza farci prendere da troppi entusiasmi né illuderci. Però da martedì scorso ad oggi, forse con qualche lieve eccezione, le borse sono... martedì la scorsa settimana, le borse sono tutte ben intonate. Anche oggi Milano più 1,90%, più 1,80 sull'S&P MIB, Parigi mezzo punto percentuale di rialzo, Francoforte l'1,1 e Londra invariata, nonostante l'America perda l'1,1% sul Dow Jones e lo 0,60 sul Nasdaq. Sempre forte l'euro, a quota 1,37 adesso nei confronti del dollaro e a quota 94 pence nei confronti della sterlina. I titoli. Allora, male oggi Seat pagine gialle, tra l'altro lunedì prossimo Seat assieme all'Espresso sarà, e a Fastweb sono i tre titoli che usciranno dall'S&P MIB e verranno sostituiti da Campari, visto che ieri ce l'avete chiesto, da Campari, Ansaldo STS e la CIR. Come titoli nell'S&P MIB. Finmeccanica perde il 5%, l'Espresso il 3,46, Terna il 2,44, Fastweb meno 2,2. Guadagna moltissimo Unipol più 11,8, Fiat più 8%, Saipem più 6,70, Generali più 5,5, Mediobanca più 5 come il Monte dei Paschi, Alleanza più 4,90, Fondiaria più 4,90, Tenaris più 4,5, Popolare Milano più 3,80, Unicredit più 3,7, Eni più 3,6%, Prismian più 2,90, A2A più 2,80%, in pregiro 2,5% di rialzo, il 2% è il rialzo di Buzzi Unicem. 349-238-6666 per i vostri sms. Di cosa ci occuperemo oggi, oltre che di borsa? Parleremo di economia, perché è uscito un dato molto brutto sull'export, anche qui. Per i prossimi mesi i dati dell'economia reale saranno terribili, anzi i primi tre mesi di quest'anno, i dati relativi al primo trimestre saranno forse i peggiori, ci auguriamo i peggiori, che vuol dire che poi la crisi andrà a migliorare nella seconda metà dell'anno. Altra cosa è ragionare sulle prospettive dei mercati, quindi dei gruppi bancari. Mai così male le nostre esportazioni dal 1986, come dato meno, come segno meno, come contrazione, meno 25,8%. Infatti anche il ministro Scajola dice i dati sono vecchi, cioè sono riferiti a gennaio, speriamo che già qualcosa si stia muovendo. E intanto l'ISAE intervista, fa 50.000 interviste per 7.000 imprese e scopre che in molti casi le piccole e medie imprese, soprattutto quando esportano, hanno problemi ad accedere al credito bancario, almeno abbiamo una conferma. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo, parleremo anche di paradisi fiscali, paradisi finanziari e segreto bancario. Avremo una lunga intervista con il numero uno della BMW sul settore auto, visto i conti usciti ieri. Rapidamente le notizie in breve. Non c'è solo l'euro e il valore di borsa oggi a influenzare i mercati, perché c'è anche un petrolio che all'improvviso ha aperto sopra i 50 dollari al barile. Non vedeva i 50 dollari dal 6 gennaio. Il petrolio, le quotazioni hanno fatto un rialzo del 4,4% oggi. In generale il petrolio sta seguendo l'andamento dell'oro, perché anche oggi l'oro ha fatto quasi un 6% di rialzo, il maggior rialzo degli ultimi 4 mesi, è arrivato a 941,6 dollari l'oncia l'oro. Come mai? Beh, c'è chi inizia a speculare su un surriscaldamento dell'inflazione americana dopo la decisione di ieri della Federal Reserve di acquistare titoli di Stato per poi immettere quindi liquidità per circa 1.000 miliardi di dollari. Allora il mercato inizia a guardare in avanti e dice: beh, con questo intervento delle banche centrali, del Ministero del Tesoro americano, girerà tanto di quel liquido, di quel contante, potrebbe esserci un aumento dell'inflazione. Ed è proprio la decisione della Federal Reserve di comprare titoli di Stato americani. Sarebbe come se la nostra Banca d'Italia si comprasse i BOT, partecipasse alle aste di BOT per immettere, per dare liquidità. Questa decisione ha influenzato anche l'andamento dell'euro, che ricordavamo prima. Adesso è a 1,3680, mi sembra arrivato oltre 1,37. Come diario della crisi si segnala oggi lo stanziamento di 5 miliardi di dollari ai distributori americani di componentistica per auto per evitarne la bancarotta. Ancora si segnala un indice di Filadelfia, che è quello che serve per vedere come sta andando il distretto manifatturiero, il settore manifatturiero nel distretto di Filadelfia, viene utilizzato in America come un termometro. Ebbene, il dato è migliore delle stime degli analisti, che prevedevano un meno 39, ha fatto un meno 35 dopo un meno 41 di febbraio, quindi c'è un meno, ma è un meno minore rispetto alle attese. Così come il superindice economico americano a febbraio è risultato migliore rispetto alle attese, anche qui c'è il segno meno, ma è un meno meno meno di quanto non si attendesse. Invece il nuovo record in America lo si ha nei sussidi alla disoccupazione, 5.470.000 gli americani a questo punto che percepiscono il sussidio di disoccupazione. Tra l'altro il dato positivo è che la scorsa settimana sono calate di 12.000 unità, ma il dato negativo è che è stato rivisto il dato della settimana precedente. Insomma, alla fine un gioco a somma zero, restano molto alte le richieste americane di sussidi alla disoccupazione. Allora, Douglas Pauling non dirà molto a voi in ascolto e neanche a me, devo dire. In realtà è il dipendente, chiamiamolo così, il manager di AIG, primo gruppo assicurativo in America, andato in bancarotta per via delle scelte scellerate dei suoi manager, soccorso da oltre 100 miliardi di dollari americani di aiuti statali, che ha fatto infuriare Obama perché nel frattempo, mentre ricevevano i soldi dei contribuenti, i manager distribuivano 170 milioni di dollari di bonus per quanto erano stati bravi. Ebbene, oggi Douglas Pauling, che era il dipendente, il manager che aveva incassato il bonus più elevato, pensate, si era beccato 6 milioni e mezzo di dollari per un gruppo che era stato fatto fallire, e non c'è male, ha restituito questi soldi. Ma non basta Pauling, perché a Washington praticamente il Tesoro ha deciso, attraverso l'ispettore generale, di avviare un'indagine su quello che è successo a American Insurance Group, perché era inaccettabile vedere 300 e dunque i manager totalmente erano 418 dipendenti ed ex dipendenti a cui sono stati distribuiti questi 170 milioni di euro di dollari di bonus. E poi ci sono delle cose incredibili. Allora, Citigroup, la banca americana che ormai vale un decimo di quanto non valesse in borsa un anno fa, la banca americana che è la prima banca americana che tutti temono possa crollare miseramente, che ha già ricevuto 50 miliardi di dollari di aiuti statali, il cui numero uno Charles Prince, Chuck Prince come dicono gli amici, si è beccato solo negli ultimi due anni 50 milioni di dollari di stipendio. Chiamata Wall Street la zombie bank, perché ormai è in viva, è un morto che cammina. Nonostante ci sia un nuovo amministratore delegato che si chiama Vikram Pandit e che l'anno scorso ha guadagnato 11 milioni di dollari, quest'anno ha rinunciato, se non ricordo male vuole solo un dollaro, però sta per spendere 10 milioni di dollari per rinnovare gli uffici dei manager. dei manager più stretti. Ora io immagino che fosse per uffici particolarmente disagiati e scomodi che Citigroup si sia imbarcata in questi 200 e passa miliardi di prodotti tossici. Forse era la scomodità della scrivania, la sedia poco ergonomica, ma non so se sia il caso di spendere 10 milioni di dollari per rinnovare gli uffici dei manager, e di cui 3 milioni e 200 mila per abbattere i muri e ammodernare il sistema idraulico e quello antincendio. E vabbè, non vi dico le facce di là dal vetro. In regia Citigroup è la stessa che ha poi annullato sulle pressioni di Barack Obama l'acquisto di un nuovo jet, perché anche di quello si sentiva la mancanza, da 52 milioni di dollari per la società. Ora, complessivamente i contribuenti americani dentro Citigroup hanno già messo, tra soldi veri e garanzie, 250 miliardi di dollari. E però la sedia, la scrivania, il muro, il congegno idraulico e anche la pompa antincendio. Andiamo al G20, iniziano i lavori preparatori del G20 di Londra, il più importante degli ultimi anni, anche perché sarà tutto dedicato alla crisi finanziaria, G8 più 12 paesi, tutto dedicato alle misure. Ci si attende molto che arrivi anche un'indicazione su norme condivise. Vi saranno proposte anche per punire gli stati canaglia fiscalmente, i paradisi fiscali, di questo parleremo dopo le 18. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto: daremo un sostegno ai progetti che possono partire da subito e daremo un segnale di unità a livello europeo su come affrontare la crisi. E questo ci porta al nostro primo tema. Nel frattempo i dati che arrivano relativi ai mesi di gennaio e febbraio, come ampiamente annunciato e non poteva essere altrimenti, sono pesanti, pesantissimi sull'andamento della nostra economia. Ripeto, in questo momento stiamo guardando con lo specchietto retrovisore. Questo è gennaio, qualche segnale dall'America, non dall'Europa, inutile che mi accusiate di essere troppo ottimista, viva Dio, insomma, ma qualche segnale dall'America sta arrivando. Questi sono i dati di gennaio e sono di una gelata siberiana sull'economia italiana: meno 25,8% l'export, il peggior dato come segno meno, non come valore assoluto chiaramente, dal 1986. In sostanza il saldo è negativo per 3 miliardi e 585 milioni, un po' meglio comunque del deficit di gennaio 2008, quando fu di 4 miliardi e 100 milioni. Abbiamo esportato in meno per praticamente 25,8% e importato in meno per un 24,1%. Ecco perché poi il saldo è un po' migliore, perché diciamo abbiamo anche frenato bruscamente sulle importazioni, non solo sulle esportazioni. I settori, oltre all'auto, la meccanica, la chimica, l'elettronica, l'abbigliamento, le calzature e il mobilio, come ci racconta questa scheda. Oltre a fotografare le difficoltà che stanno affrontando le nostre imprese, i dati sulle nostre esportazioni disegnano la geografia della crisi globale. I paesi economicamente più in difficoltà in questo momento sono infatti quelli dove il calo degli acquisti di Made in Italy è più marcato. Su tutti la Spagna, dove lo scorso gennaio la flessione è stata di ben il 42% rispetto all'anno prima, seguita dall'Inghilterra con un calo di oltre il 30%. La discesa del nostro export è stata altrettanto ripida verso i paesi dell'Est Europa, con cali di oltre il 40% in Russia, Lituania e Lettonia. Fortunatamente è più contenuta la diminuzione che ha interessato il nostro primo cliente, ossia la Germania, verso cui abbiamo esportato il 19% in meno di un anno fa, mentre si ferma a un meno 17% la flessione delle vendite in Francia. Fuori dall'Europa, l'export verso gli Stati Uniti è sceso del 39%, mentre le vendite verso Cina e Giappone si sono ridotte rispettivamente del 27% e 19%. A livello di settori, la maglia nera va ancora una volta alle automobili. Lo scorso gennaio ne sono state vendute all'estero quasi il 50% in meno dell'anno prima. Tra i settori più colpiti ci sono poi la chimica, meno 35%, e i mobili, meno 30%. Forti difficoltà anche per la meccanica, con un calo del 27%, che tuttavia è riuscita a mantenere il saldo tra esportazioni ed importazioni in attivo per oltre 2 miliardi di euro. Infine, contengono in qualche modo le perdite l'abbigliamento, che ha chiuso gennaio con un meno 16%, e le calzature, in flessione del 14%. Il risultato migliore riguarda i prodotti alimentari, con vendite all'estero diminuite del 5%. Questi dati nello specifico, e allora vediamo i commenti. Intanto il ministro dello sviluppo economico Scajola, che ha detto: vabbè, questi dati sono vecchi, sono relativi a gennaio, speriamo che vi sia un miglioramento. Noi sappiamo anche, ahimè, che crisi significa selezione. Io sono convinto che nel complesso usciremo dalla crisi meglio degli altri paesi, meglio di come ne siamo entrati. Ma non c'è dubbio che crisi significa selezione e quindi che alcuni non riusciranno a reggere questa difficoltà che c'è. E anche la presidente di Confindustria Mancegaglia ha detto: è difficile fare previsioni in questo momento, ci attendiamo segnali positivi per la fine del 2009 per poi arrivare ad una ripresa vera e propria nel 2010. Ha poi aggiunto la presidente di Confindustria: da quello che ho potuto cogliere nei colloqui con il Presidente del Consiglio Berlusconi, la percezione della gravità lui stesso ce l'ha, e anche nelle sue aziende registra alcuni cali di fatturato. E poi è tornata la Presidente del Confindustria Mancegaglia sul fondo di garanzia, che sia utilizzabile lungo tutto il 2009, ha chiesto, e lo ha detto oggi in una conferenza stampa al termine dell'incontro con la Confindustria Toscana. È anche tornata sul provvedimento per finanziare gli ammortizzatori sociali, per i quali sono stati stanziati 8 miliardi di euro. Anche noi abbiamo messo tra le nostre priorità gli ammortizzatori sociali. Penso che l'accordo tra Stato e Regioni sugli 8 miliardi di ammortizzatori sociali in deroga sia un buon accordo. Anche qui adesso bisogna dare esecuzione ovviamente a questo accordo. Noi abbiamo anche chiesto che all'interno di questo accordo ci sia anche la possibilità di avere prolungamenti delle casse integrazioni ordinarie. Noi abbiamo alcuni settori, alcune aziende che nei prossimi mesi esauriranno la cassa integrazione ordinaria. Quindi anche lì bisogna dare delle risposte, quindi la nostra attenzione all'aiuto, al supporto al reddito di chi perde il posto di lavoro momentaneamente o purtroppo definitivamente è totale, cioè noi pensiamo che questo sia assolutamente essenziale. E poi ha concluso la Presidente di Confindustria che da quando le banche otterranno i Tremonti Bond e quando ci sarà poi il fondo di garanzia operativo per le piccole e medie imprese, quello da 1,5 miliardi, a quel punto le banche non avranno più alibi per non erogare credito alle imprese. Di questo parleremo, di credito alle imprese, dopo le informazioni meteo e la pubblicità, perché nel frattempo invece, come segnala oggi l'ISAE, che è un istituto di emanazione governativa, quindi non è né Confindustriale né Confcommercio né CGL, ci mancherebbe, l'ISAE ha fatto un'indagine e ha detto: su 7.000 imprese e 50.000 intervistati, quasi il 10% a febbraio di queste aziende non è riuscita a ottenere il credito richiesto. È una percentuale doppia rispetto a un anno fa. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo della ricerca dell'ISAE e quindi del rapporto banche e imprese e anche poi dell'export. Ringrazio allora per essere in collegamento con noi il presidente dell'ISAE che ha condotto questa inchiesta, Alberto Maiocchi. Buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Dunque, voi avete fatto un'indagine su 7.000 imprese con 50.000 interviste, e quindi non poche, a febbraio. E vediamo di capire, visto che la querela è tra imprese e anche i nostri ascoltatori che segnalano difficoltà nel credito bancario, quindi nell'accendere e accedere anche in generale al credito bancario, e il mondo bancario che dice no, a noi non risulta. Insomma, che cosa è emerso da queste 50.000 interviste per un totale di 7.000 imprese? Innanzitutto le interviste che abbiamo fatto riguardano appunto 7.000 imprese, 4.000 nel settore manifatturiero e poi nel settore dei servizi e nel settore del commercio al minuto. Quindi è un campione molto rappresentativo dell'universo italiano. Il dato che si rileva è che in particolare per le imprese manifatturiere, il dato che emerge dalle inchieste di febbraio è che il 40% degli intervistati riconosce che c'è stato un peggioramento delle condizioni di accesso al credito, e inoltre il dato rilevante è che l'8% degli intervistati hanno rifiutato il credito, hanno visto rifiutato il loro accesso al credito, il 6,6% di questo 8% perché le banche non hanno concesso il finanziamento e l'1,4% perché le condizioni richieste dalle banche erano particolarmente onerose. Il secondo elemento che vorrei sottolineare per quanto riguarda il manifatturiero è che questa condizione è particolarmente rilevante per le imprese esportatrici, che anche qui hanno trovato particolari difficoltà nell'accesso al credito sempre nel mese di febbraio, in cui abbiamo potuto fare una suddivisione fra imprese che vendono sul mercato interno e imprese che vendono sui mercati internazionali. Per quello che riguarda i tassi, si sono lamentati, oltre che della difficoltà nell'accedere al credito, anche nel costo pagato, perché non risulta che il tasso medio per i prestiti alle imprese, per prestiti inferiori a un anno in Italia, sia al 6,3%, in Germania al 5,5%, in Francia è al 5%, quindi quasi oltre un punto in meno, e la media europea di almeno mezzo punto inferiore all'Italia. Poi per i tassi medi praticati dalle banche alle imprese per prestiti inferiori ai 5 anni siamo al 5,7% in Italia come tasso medio, al 5% in Germania, al 4,9% in Francia e al 5,2% come media europea. Quindi anche qui in Francia costa quasi un punto percentuale in meno e la media europea è di mezzo punto percentuale più bassa. Presidente Maiocchi. Ecco, noi non abbiamo dati specifici nelle domande nostre dell'inchiesta sui tassi. Quello che emerge dalle nostre domande è che una quota significativa di imprese dichiarano che sono sottoposte a forme di razionamento debole, nel senso che non sono escluse dall'accesso al credito da parte degli istituti bancari, ma gli istituti bancari impongono condizioni così onerose che le imprese sono obbligate a rinunciare all'accesso al credito. Quindi è chiaro che l'andamento non è uniforme per tutti i settori, è particolarmente marcato il problema per il settore manifatturiero, è meno rilevante per il settore del commercio, dove c'è una distinzione fra il commercio tradizionale di piccole dimensioni, che soffre maggiormente delle restrizioni creditizie, e le grand surface, che hanno più facilità di accesso al credito. Quindi settore diversificato, diciamo. Un altro elemento che emerge è che mentre da parte di molti si ritiene che le difficoltà si manifestino soprattutto nelle regioni meridionali, dai nostre inchieste emerge che anche nelle regioni del centro-nord le imprese manifatturiere trovano maggiori difficoltà di accedere a forme di creditizie da parte del sistema. Ancora, per quello che riguarda invece, lei citava anche, che questo dispiace, la difficoltà che voi avete registrato e soprattutto per le imprese del centro-nord, piccole e medie, molto vocate all'export, e dispiace perché sono queste le imprese che hanno più bisogno di flussi di liquidità, flussi bancari. Proprio oggi è uscito un dato sull'export a gennaio, un meno 25,8%. Allora, prima vorrei commentare con lei questo dato, poi vorrei un ragionamento più complessivo, visto che l'ISAE è l'istituto di emanazione anche governativa per l'analisi economica, capire se è vero che vi siano in questo momento due velocità, quella dei mercati e delle banche con qualche segnale di ripresa e quella dell'economia reale che invece è ancora in profondo nero. Partiamo dalla prima domanda. L'export meno 25,8%, il peggior dato dal 1986. Beh, certamente è un dato che fa abbastanza impressione. Io credo che però si possa fare questo tipo di osservazioni. L'economia italiana, al pari dell'economia tedesca, è un'economia che riposa fortemente sulle vendite sui mercati internazionali e quindi risente più pesantemente, lo stesso avviene per la Germania, della caduta della domanda, del ristagno della domanda da parte dei paesi industrializzati e da parte dei paesi industrialmente emergenti. Ora, questo è un elemento che durante la fase recessiva tende a aggravare le condizioni dell'economia italiana come dell'economia tedesca, ma è chiaro che questo può rappresentare anche un vettore per la ripresa dell'economia una volta che sui mercati internazionali si abbia una ripresa della domanda. Questa è la prima osservazione che vorrei fare. La seconda osservazione, che è emersa anche in un articolo che è stato pubblicato oggi sul vostro giornale, Il Sole 24 Ore, a cura dell'ISAE, qui si mette in rilievo che nel periodo dell'espansione 2003-2007, sulla base dei nuovi dati sulla produzione industriale dell'Istat che sono stati pubblicati il 2 marzo, si è avuto non solo una crescita della produzione industriale molto superiore a quella stimata precedentemente, siamo passati dal 2,6 a un aumento del 6% del valore della produzione, ma anche un forte incremento della produttività nel settore manifatturiero, da uno 0,6 siamo passati all'1,5. Questo vuol dire che la crescita della produttività durante il periodo di espansione in Italia è stata pari all'espansione media europea. Questo vuol dire infine che le imprese italiane probabilmente oggi sono più attrezzate, se parte la ripresa internazionale, per competere efficacemente sui mercati mondiali. Un'ultima domanda, ed era quella che le anticipavo. Noi notiamo che qualche grande banca internazionale, penso a Citigroup, Barclays, ieri il caso di Unicredit, parlo degli utili, ha qualche segnale economico leggermente migliore delle attese. Anzi, per Citigroup una vera sorpresa. I mercati, diciamo, poi vedremo, ci mancherebbe, con la massima prudenza, ma si stanno in Europa riassestando anche oggi molto bene Milano, bene comunque l'Europa, al di là dei casi bancari. Cioè, c'è qualche segnale anche sulla disoccupazione, sui sussidi della disoccupazione americana, sulle vendite al dettaglio, ripeto, molto molto timidi, ma sembrerebbe essersi perlomeno fermata la discesa continua sul fronte finanziario e bancario, mentre nell'economia reale vediamo continuamente dati negativi. Secondo lei si può parlare di due velocità, di due livelli, o ancora non vede la luce in fondo al tunnel? Ma guardi, noi nelle previsioni che abbiamo fatto per l'economia italiana pensiamo che la fase più forte di caduta della produzione e dell'occupazione nel settore della manifattura dovrebbe incominciare a includersi verso la seconda metà dell'anno e che una piccola ripresa possa aversi nel corso del 2010. L'elemento che questa doppia velocità a cui lei accenna è probabilmente effettivamente un elemento della realtà del nostro sistema produttivo, perché la crisi industriale, della produzione industriale, di cui l'export è uno degli epifenomeni, evidentemente dipende in parte dall'andamento dei mercati mondiali e poi fortemente da una crisi di fiducia che si è manifestata nel sistema a seguito di una crisi che non nasce nel settore reale ma nasce nel settore finanziario. Quindi io credo che se si ricostituiscono condizioni di fiducia nel settore finanziario, il che significa il mercato delle borse, il mercato delle banche, questo avrà un effetto positivo ma un po' ritardato anche sull'economia reale e i primi segnali dovrebbero già manifestarsi nel corso della seconda metà di quest'anno. Beh, vedremo quindi se, io mi auguro che le previsioni vostre come quelle di altri vengano confermate, cioè appunto la parte peggiore terminata, diciamo, nell'ultimo trimestre del 2009. Grazie al presidente dell'ISAE Alberto Maiocchi. Grazie dottor Barisoni. In attesa poi di vedere se veramente da fine 2009 riusciremo a avere qualche segnale più incoraggiante. Già, ripeto, cautamente a marzo qualcosa si sta muovendo. Vedo che non manca l'ironia nei nostri ascoltatori, alcuni commentano la richiesta del numero uno di Citigroup, banca zombie bank americana, di spendere 10 milioni di dollari per rifare gli uffici dei manager come un modo per far ripartire l'economia. Sì, spendere va bene per far ripartire l'economia, bisogna vedere anche come. Detto ciò, la borsa più 1,9% S&P MIB, più 2% MIBTEL. Lunedì usciranno, visto che ce lo chiedete, tre titoli, ne entreranno altri tre dall'indice S&P MIB, quello che raggruppa i titoli a maggiore capitalizzazione. Ripeto, usciranno l'Espresso, Seat e Fastweb, entreranno Ansaldo STS, CIR e Campari. Oggi sarà un caso, ma alcuni dei titoli che escono, e mi riferisco a Seat Pagine Gialle e anche l'Espresso, sono i due peggiori: Seat meno 10,1, l'Espresso meno 6,5, male anche Fastweb meno 3,5%, male anche Finmeccanica che perde il 5% e Intesa che perde il 3,6%, come Banco Popolare che perde il 2,4%. Mentre bene, molto bene, Unipol più 13%, Fiat più 9,9%, Saipem più 7%, Unicredit più 6,2%, Alleanze più 5,5%, Mediobanca più 5,2%, Generali più 4,8%, Tenaris più 4,5%, Eni più 4,1%, Fondiaria più 3,5%, Monte dei Paschi più 3,3%, Prismian più 3,2%, A2A più 3%. Chiudiamo con Pirelli più 2,5, come la Popolare di Milano, il 2% lo guadagna Buzzi Unicem e anche Impregilo. Andrea Fontana, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, chiariamo subito se il motivo di questi cali così pesanti su Seat, meno 10, l'Espresso, meno 6,5, Fastweb, meno 3,5, perché escono lunedì dal listino principale. Diciamo che su Seat e l'Espresso ci sono anche storie aziendali in questo momento certamente non facili a penalizzare i titoli. Va detto che il movimento, cioè l'uscita dal paniere dell'S&P MIB, che avverrà, come tu ricordavi, lunedì, va a coincidere, quindi l'ultima seduta, quella di domani, con una scadenza particolarmente significativa. Domani, terzo venerdì del mese, il cosiddetto giorno delle tre streghe in borsa, cioè il giorno in cui scadono i contratti relativi ai future sugli indici, alle opzioni sugli indici e alle opzioni sulle azioni. I movimenti sono spesso strani, soprattutto chi deve andare a rimodulare il proprio portafoglio delle azioni, stiamo parlando in particolare dei fondi, può darsi che lo spostamento riguardi questi titoli che escono dall'S&P MIB e per questo che oggi sono stati penalizzati anche più degli altri, in particolare Seat e l'Espresso. Di nuovo in diretta, scrivono alcuni ascoltatori, il ribasso non è finito in borsa, questo è solo un grosso rimbalzo, l'estate sarà torrida. Aspettiamo l'estate, qui c'è l'aria condizionata, cosa devo dire? Tanto noi saremo in diretta come sempre anche ad agosto con Focus Economia. Andrea Fontana, al di là dei casi di Seat, l'Espresso e Fastweb, chiudiamo con i titoli negativi, con Finmeccanica meno 5 e Intesa meno 3. Intesa ha conosciuto una giornata veramente strana, Andrea. Sì, Intesa ha conosciuto una giornata strana, è stata positiva con le altre banche nella prima parte della seduta e poi ha anche sotto la scia del peggioramento del listino italiano ha un po' corretto, ma soprattutto ha avuto un finale particolarmente negativo che ha fatto perdere, tu ricordavi, il 3,6%, l'attesa è per i conti di domani, come già anticipato l'amministratore delegato Corrado Passera, verrà anche esaminato in CDA la richiesta dei famosi Tremonti Bond. Diciamo che il mercato si è un po' posizionato decisamente sul finale in attesa dei risultati di domani. Per quanto riguarda invece Finmeccanica, è andata male fin dalla mattinata, peggiorando sul finale, ha pesato l'indicazione di Goldman Sachs che ha tolto il titolo dalla propria lista paneuropea dei titoli da comprare, questo ha permesso al titolo, insomma, di registrare questa performance particolarmente negativa. Allora, sui titoli Unipol, chiaro che ci sono i dati, più 13%, che cosa ha entusiasmato il mercato su Unipol? Beh, innanzitutto l'attesa dei conti è certamente uno degli indicatori che in questo periodo è particolarmente rilevante per l'effetto che ha sul titolo. Abbiamo visto Unicredit in questi giorni, ancora oggi ha fatto oltre più 6%, ma il mercato si aspetta anche una conferma da quelle che sono le indiscrezioni in merito al destino dell'amministratore delegato Carlo Salvatore. Nelle ultime settimane molti lo davano insistentemente come prossimo presidente della Banca Popolare di Milano, invece negli ultimi giorni sembra che Salvatore abbia fatto un passo indietro nella sua candidatura, quindi che non ci sia una candidatura a Salvatore. Ci sarà una conferenza stampa in serata, insomma il mercato si aspetta una conferma di questa ultima indiscrezione. Questo su Unipol. Fiat più 9,9%. Fiat ha beneficiato soprattutto nell'ultima parte della seduta di una certa effervescenza sul comparto auto per buone notizie che venivano dagli Stati Uniti sul settore, non solo l'ottima performance di General Motors che guadagna anch'essa il 9% in questo momento a Wall Street, ma anche le indiscrezioni sull'intervento del Ministero del Tesoro a favore dei produttori di componentistica auto. Poi ci sono fattori anche specifici, sono usciti i dati dei primi 15 giorni di vendite sul mercato brasiliano positive, che insegnano una indicazione positiva per quanto riguarda il mercato brasiliano, dove Fiat è tra i leader di mercato, più 8% rispetto allo stesso periodo di febbraio e più 3% rispetto al marzo del 2008. L'ottimismo è venuto anche dalle parole del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, che questa mattina ha detto che le prime indicazioni sugli ordini, grazie anche agli ecoincentivi, nel mese di febbraio erano state positive. Ci si attende una crescita delle immatricolazioni e quindi un'inversione di tendenza nel mese di marzo, e tutti questi fattori hanno permesso a Fiat di guadagnare quasi il 10% oggi. Ancora con i titoli, Saipem più 7 si diceva, Unicredit più 6,2, Alleanze più 5,5, Mediobanca più 5,2, Generali più 4,8, Tenaris più 4,5, Eni più 4,15%, quindi nessun effetto su Eni della notizia che ha visto la Commissione europea inviare una comunicazione al cane sei zampe dove si ritiene che il gruppo energetico italiano abbia violato le regole comunitarie sulla concorrenza. In sostanza l'accusa è di abuso di posizione dominante nel mercato del gas. Eni ha risposto con una nota che collaborerà pienamente con la Commissione europea fornendo tutte le informazioni utili ai fini dell'indagine. Il ministro Scajola ha detto che l'Europa sia meno burocratica vista l'emergenza energetica e si occupi più delle garanzie e della sicurezza sugli approvvigionamenti. Chiusa la parentesi Eni, continuiamo con Fondiaria meno 3, più 3,5, Monte dei Paschi più 3,3, Prismian più 3,2, A2A più 3%. Visto che ci chiedevate di ripetere i titoli, alcuni ascoltatori ci chiedono di ripetere, Andrea, anche il perché le tre streghe, the three witches, sono una giornata così delicata nel panorama dei mercati. Domani è il giorno. Sì, diciamo che le scadenze, queste scadenze tecniche che cadono il terzo venerdì del mese, portano nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza appunto a movimenti movimenti piuttosto strani sul mercato, perché soprattutto gli investitori istituzionali tendono a rimodulare, quindi a spostare il paniere, a ricomporre il paniere dei propri titoli con le scadenze, quindi a cedere dei titoli che non si ritengono più diciamo così performanti e a inserire nel proprio portafoglio titoli altri titoli azionari appunto ad assumere posizioni diverse. Facevamo il caso di Seat e dell'Espresso. È chiaro che una loro uscita dell'SP MIB li penalizza, diciamo, sul fronte della visibilità, e li penalizza appunto anche nella loro presenza in questi portafogli. Adesso vorrei chiudere parlando di un titolo che poche volte citiamo, anche perché non è un titolo di quelli più grossi, è abbastanza sottile, Telecom Italia Media, ossia le attività legate al mondo dei media del gruppo Telecom Italia, che si chiamano in primo luogo La 7. Perché ne parliamo? Perché dopo essere scivolata praticamente a 2-3 centesimi di euro per azione, anche qui ne valeva un anno fa circa 20 centesimi, è un po' di seduto che continua a guadagnare, è tornata a 8 centesimi di euro per azione, per la precisione in questo momento il titolo ha chiuso con un rialzo a 7 centesimi, scusatemi, più 17% anche oggi. Sì, un 17% che segue una performance simile fatta ieri, tant'è vero che la Consob ha chiesto alla società un chiarimento rispetto a questi movimenti di borsa. Oggi a lungo il titolo non è riuscito a fare prezzo, quindi guadagnava teoricamente oltre il 30%. Telecom Italia Media ha detto che non ha comunicato, che non ci sono stati eventi particolari e degni di nota da comunicare al mercato. Va detto che è una società particolarmente sotto la lente di ingrandimento in questo momento, perché i movimenti possono essere molti. Cioè, la società ha comunicato il mandato a Merrill Lynch per quanto riguarda le proprie attività di broadcasting, come già riportato sui giornali c'è questo movimento che è legato alla vendita dell'agenzia di stampa Apicom, che rientra sotto Telecom Italia Media, e tutta questa effervescenza ha portato negli ultimi giorni il titolo a muoversi in questa maniera assolutamente incontrollata. :09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Ci occuperemo dei conti di un colosso dell'auto come BMW e poi dei paradisi fiscali e finanziari. Attenzione, una nota a chi scrive: non è che da lunedì scompaiono Seat, Pagine Gialle, L'Espresso e Fastweb, semplicemente escono dall'S&P MIB e restano quotate nel listino normale, non sono più nel listino dei titoli a maggiore capitalizzazione, quello più interessante perché spesso i fondi comuni di investimento internazionali comprano o hanno o investono sull'indice o comprano titoli lì dentro. Tutto qua. Detto questo, il settore auto oggi si diceva bene Fiat, ieri i conti della BMW presentati a Monaco di Baviera, molto pesante il calo dell'utile netto, che è stato del 90% inferiore all'anno precedente, comunque c'è l'utile, 330 milioni. Il quarto trimestre del 2008 per il gruppo di Monaco di Baviera è stato il peggiore, meno 718 milioni come conto economico, contro un utile di 1 miliardo e 3 nello stesso periodo del 2007. Il fatturato è sceso a 53 miliardi, il dividendo passa a 30 centesimi di euro contro l'euro, 1,06 euro del 2007. Il gruppo è tranquillo, BMW infatti ha spiegato al nostro Sergio Nava, che ha seguito la presentazione dei dati a Monaco di Baviera, che la liquidità del gruppo si è rafforzata, come ha chiarito appunto Marco Saltanamacchia, che è, oltre al responsabile di BMW Italia, anche senior vicepresidente per la regione Europa di BMW. Quello che è rilevante è la crescita, la disponibilità della liquidità, che tra l'altro raddoppia sostanzialmente rispetto al livello dell'anno scorso, raggiungendo gli 8,1 miliardi. L'azienda è stata capace integralmente di autofinanziarsi, quindi il cash flow operativo dell'azienda è rimasto sostanzialmente in pareggio. Solida perché non abbiamo ridotto gli investimenti, quindi il volume degli investimenti si è mantenuto attorno al livello dei 4 miliardi di euro, confrontabile con quello del 2007, quindi un assieme di fattori che nel contesto attuale ci permettono di dire che il credit crunch non dovrebbe riguardarci, nella misura in cui non dovesse ulteriormente peggiorare nei prossimi mesi. La situazione del piano prodotto è rimasta intoccata e quindi potremo presentare sul mercato una fase di ripresa con le carte in regola. L'unico segnale di ripresa che ha inviato il mercato dell'automobile nell'ultimo mese è arrivato dagli ecobonus. Allora, come definirlo? Un incentivo temporaneo o qualcosa su cui si può anche costruire? È evidente che le aspettative generali in questo momento giocano un ruolo determinante e che la componente psicologica del consumatore è ugualmente importante. Nella misura in cui questa componente oggi gioca un ruolo negativo, il consumatore ha un atteggiamento di maggiore aspettativa, che si traduce in minori acquisti, che si traduce in minore produzione, conseguentemente in maggiore disoccupazione. Questo genera un circolo vizioso dal quale non si può venire fuori se non si costruiscono dei meccanismi che invertono questo ciclo. La logica degli ecobonus è esattamente in questa direzione, quella di invertire questo volano creando degli stimoli nei consumatori che già oggi si trovano ad avere un potere di acquisto sostanzialmente superiore a quello che avevano solo qualche mese fa. Così appunto Marco Saltaramacchia, vicepresidente per l'area europea di BMW, intervistato dal nostro Sergio Naval. Di nuovo in diretta. Allora, l'ultima notizia, come ricordavo, è che il Lussemburgo ha chiesto alla Germania di abbassare i toni in tema di paradiso fiscale. Ma cosa è successo? A inizio aprile vi sarà il G20 e uno dei temi a Londra sarà anche la nuova blacklist, la nuova lista nera dei paesi ritenuti fiscalmente stati canaglia, no? Nel frattempo è arrivata una pressione molto forte sia dalla Francia con il cancelliere Merkel che dalla Francia con Sarkozy, che dalla Germania con il cancelliere Merkel, per creare un meccanismo di sanzioni internazionali contro i paradisi fiscali. E tra l'altro nella classifica dell'OCSE, che poi però dovrà essere approvata dal G20, sembra che entrerebbero tra questi paesi anche Svizzera, Lussemburgo, Austria, Singapore e Hong Kong. Queste pressioni franco-tedesche qualche effetto l'hanno avuto, perché due giorni fa Monaco, cioè il Principato di Monaco, il mitico, ha deciso di cooperare per uscire dalla lista nera. Svizzera, Austria e Lussemburgo cambieranno le loro regole sul segreto bancario perché non vogliono finire nella lista nera. Il Liechtenstein pure, Andorra abolirà il segreto bancario entro 2009, il Belgio è pure pronto allo scambio di informazioni, la Francia farà un accordo con l'isola di Man. Insomma, la Svizzera ha anche protestato, dice noi non siamo un paradiso fiscale, siamo la Svizzera. Cerchiamo di capire cosa stia succedendo con uno dei massimi esperti di questi temi a livello italiano, il professor Guglielmo Maisto, che è docente di diritto tributario all'Università Cattolica, nonché è anche il rappresentante di Confindustria per quello che riguarda la parte, diciamo, paradisi fiscali e lista dentro l'OCSE. Buonasera professore. Buonasera. Tra l'altro lei rappresenta anche Confindustria presso il Business Industry Advisory Committee all'OCSE di Parigi, quindi sì, rappresenta anche la posizione della Confindustria dentro l'organismo dell'OCSE, che quello che poi ha l'OCSE stesso stilato la lista nera cosiddetta. Allora, prima notizia più da giornalista che da economista. Come mai, fermo restando che i paradisi fiscali esistono da sempre, 41 paesi, con capitali depositati che si stima essere tra i 5.000 e i 7.000 miliardi di dollari, come mai adesso la corsa a uscire dalla lista nera? La corsa a uscire dalla lista nera per evitare delle ritorsioni da parte dei paesi OCSE. Esistono già misure adottate dai paesi OCSE, si è annunciato il G20 di aprile e quindi tutti questi paesi temono che in quella sede possono essere adottate delle misure di massima o concordate delle misure di penalizzazione degli investimenti in quei paesi ulteriormente a quanto è già stato fatto dalle legislazioni di molti stati. Quindi è una manovra, diciamo, di anticipazione, vuoi per guadagnare tempo, vuoi per effettivamente cominciare a collaborare. I casi di paradisi fiscali sono i più vari e svariati, si va dalle isole Vergini Britanniche con 3 milioni di aziende ed hedge fund, ora va bene tutto, ma insomma chiaramente sono sedi di comodo fiscalmente. Nelle isole Cayman, posto bellissimo per carità, ma 500.000 società offshore, 10.000 hedge fund, praticamente un fondo altamente speculativo, questo vuol dire poi hedge fund, su due, cioè la metà di tutti quelli che esistono al mondo ha sede alle Cayman. Evidentemente i gestori amano anche fare immersioni. E ancora, per quello che riguarda i paradisi fiscali, si calcola, per esempio, che ogni anno, lo calcola la Banca Mondiale, tra 1.000 e 1.600 miliardi di dollari arrivino nei paradisi fiscali solo come frutto di attività criminali. Per cui attenzione, non stiamo solo parlando degli stipendi di chi si è arricchito magari speculando con i prodotti tossici, il caso Madoff, ma anche di e soprattutto proventi della criminalità organizzata a livello mondiale. In realtà, professor Maestro, mi sembra che tutto l'interesse nasca e prenda il suo avvio dopo i crack bancari miliardari americani, l'aver scoperto che molti di questi top manager avevano i propri depositi nelle Cayman e aver scoperto che, per esempio, nella vicenda del crack Madoff, il più grande della storia, 50 miliardi di dollari, quasi tutte le società transitavano e facevano capo a paradisi fiscali. Sì, però bisogna distinguere tra paradiso fiscale e paradiso finanziario, perché se delle responsabilità ci sono nelle vicende quali quella di Madoff, queste sono dovute ai paradisi finanziari, non a quelli fiscali, cioè a quei paesi che dispongono di una legislazione che non garantisce la trasparenza societaria. Mi riferisco a stati dove non è obbligatorio redigere un bilancio, dove non è necessario avere forme di pubblicità degli atti costitutivi della società, dove non ci sono forme di garanzia nei confronti dei creditori o dell'integrità del patrimonio. Quindi per questi stati, indipendentemente dalla circostanza che ci sia tassazione o che non ci sia, è per questi stati che si pone il problema. Altro è invece il paradiso fiscale, e cioè il paese che può anche avere una legislazione finanziaria trasparente, che quindi tutela anche i risparmiatori in altri stati, ma che semplicemente dispone di regole fiscali favorevoli. Spesso le due caratteristiche coincidono, ma non sempre, quindi bisogna fare di distinguo. È molto importante quando le dici, perché anche per colpa di noi giornalisti spesso si confonde il paradiso finanziario con quello fiscale. Se ho ben capito, quello più grave, più pericoloso, più rischioso è quello finanziario, non quello fiscale. Voglio dire, per usare, dare dei nomi alle cose, Svizzera, Austria e Lussemburgo sono più paradisi fiscali o finanziari? E quali sono paradisi fiscali ma non tanto finanziari, in cui tu hai poche tasse da pagare ma hai nome e cognome, hai degli obblighi nel redigere bilancio, nel dare, diciamo, la tua identità? Tra i paesi che hai menzionato, sicuramente il Lussemburgo, si è parlato poi anche di Austria o anche di Belgio, seppure con riferimento ad aree, diciamo, a settori legati al segreto bancario, ma sicuramente Lussemburgo non è un paradiso finanziario, perché è stato membro dell'Unione Europea e quindi si sottopone alla regolamentazione di trasparenza bancaria e finanziaria prevista per tutti gli Stati membri. Questo vale anche per l'Irlanda, che pure dispone di norme fiscali agevolative, ma sicuramente per definizione non sono paesi da ricomprendersi dai paradisi finanziari. Sono soggetti alle stesse regole, addirittura anche quelle sull'antiriciclaggio, che esistono in Italia. Lo stesso direi vale anche per la Svizzera, perché è un sistema di normative finanziarie legate agli obblighi di redazione di prospetti informativi nei confronti del pubblico e di redazione di conti annuali molto simili a quelli degli Stati dell'Unione Europea. Eppure anche la Svizzera è un paese che dispone di norme tributarie agevolate. Se vogliamo individuare dei paesi che possono essere ricompresi tra i paradisi finanziari e che quindi ad esempio non prevedono regole di autorizzazione per la costituzione di fondi di investimento o per la raccolta del pubblico risparmio, possiamo pensare a Panama, dove addirittura non esiste nemmeno l'obbligo della redazione del bilancio, possiamo pensare alle isole Cayman e ad altri stati che hanno caratteristiche identiche. E ripeto, questo è un punto importante, tra l'altro, se ho ben capito, paradisi fiscali dove il fisco costa poco, si pagano poche tasse, ma magari hai obblighi, anzi li hai, di rendicontazione, di compliance simili a quelli dei paesi normali, possono essere l'Irlanda, Lussemburgo e anche la Svizzera, dice lei, mentre paradisi finanziari, quindi ben più gravi di un paradiso fiscale, dove puoi anche non registrarti, o se ti registri nessuno va a controllare, se la sto buttando un po' in in maniera prosaica, però sono Panama e le isole Cayman. Tra l'altro lo stesso Barack Obama nel 2007, quando era ancora senatore, firmò lo Stop Tax and Haven Abuse Act, la legge che puntava a ridurre la possibilità di evadere le tasse sugli investimenti realizzati nei paradisi finanziari e fiscali. Obama era stato molto colpito, lo disse anche in un'intervista, dal caso di un edificio alle isole Cayman, in cui in questo edificio, in questa palazzina di pochi piani, risiedevano legalmente 12.000 grandi società americane. Ora, per quanto uno si possa stringere, va bene tutto, ma era un caso un po' particolare. Un'ultima domanda, professor Maisto. La Svizzera, così come il Lussemburgo, così come l'Austria, il Liechtenstein, l'Andorra, il Belgio, sono intervenute sul tema del segreto bancario, hanno detto in sostanza che allenteranno le loro regole sul segreto bancario. Ecco, delle volte si fa confusione anche in questo caso, si confonde paradiso fiscale o paradiso finanziario con paesi in cui anche per un diritto civico, per una tutela dei diritti individuali, esiste una forte resistenza, una forte tradizione a difendere il segreto bancario. Sì, io effettivamente farei un distinguo tra trasparenza finanziaria e segreto bancario. Peraltro, proprio sulla Svizzera, a me pare che le dichiarazioni rese recentemente non siano nel senso di abolire il segreto bancario. Proprio il Presidente della Confederazione su questo è stato molto chiaro nel comunicato stampa che è stato poi diramato, proprio ha precisato che la Svizzera ribadisce di mantenere il segreto, semplicemente si dichiara disponibile a rilasciare informazioni ad altre amministrazioni di altri stati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se un giorno l'Italia dovesse richiedere il contenuto di un contratto concluso da un suo contribuente, questo contratto viene consegnato all'amministrazione italiana, ma se l'amministrazione italiana dovesse chiedere se il signor Rossi dispone di un conto bancario ed eventualmente per quello ammontare, a questo punto scenderebbe il vincolo del segreto bancario che è stato ribadito non si vuole eliminare, anche perché peraltro sarebbe soggetto ad una procedura costituzionale di referendum, perché il segreto bancario è garantito costituzionalmente dalla Confederazione. Peraltro la stessa Svizzera ha detto siamo disponibili a collaborare, ma dovremmo farlo rinegoziando tutti i trattati internazionali che abbiamo concluso, quindi parliamo di procedure di ratifica e di negoziazione molto lunghe, quindi anche un po' potrebbe essere vista come una tecnica dilatoria. Poi ci fu il caso famoso dell'UBS che svelò l'identità a metà febbraio di 250 americani con conti nella sede svizzera. Era il fisco americano che stava indagando, il fisco americano è bello pesante quando indaga, ma il fisco americano rispose che voleva la lista intera dei 52.000 correntisti americani per capire se vi fosse una corrispondenza tra depositi in Svizzera e dichiarazioni dei redditi in America, e lì nacque proprio un caso ancora non risolto. Proprio sfruttando e ricollegandoci a questo caso, e per concludere, professor Maisto, la legislazione italiana che livelli di prevenzione, di contrasto ha sull'indebito, chiamiamolo così, utilizzo dei paradisi fiscali? Ma la normativa italiana è una normativa ben strutturata perché contiene norme già dai primi anni 90 che neutralizzano o penalizzano le operazioni in paesi con bassa fiscalità. Prevede che se sono sostenuti costi nei confronti di società residenti in questi paesi, questi costi non possono essere dedotti se non in casi particolari. Prevede che società possedute in questi paesi siano tassate in Italia indipendentemente dal trasferimento degli utili in Italia, quindi nel panorama europeo tra i paesi ad alta fiscalità sicuramente siamo tra i paesi che hanno le norme di contenimento direi più adeguate. Bisogna evidentemente non esagerare perché si rischia anche di rendere meno competitiva quell'imprenditoria italiana che si dovesse localizzare effettivamente in questi paesi con attività industriali, con attività commerciali che hanno il beneficio di avere una minore fiscalità ma di rendere anche più competitiva poi l'attività delle imprese italiane all'estero, e quindi bisogna trovare evidentemente il giusto equilibrio tra questi due fattori. Grazie, grazie anche perché ci hai aiutato a capire differenze non da poco, ripeto, tra paradiso fiscale e paradiso finanziario e poi come gioca il ruolo del segreto bancario. Grazie a Guglielmo Maisto, docente appunto di diritto tributario internazionale alla Cattolica e rappresentante della Confindustria all'OCSE presso il Business Industry Advisory Committee. Buonasera. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, le auguri a voi in ascolto di una buona serata.